allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata su 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'area c'è Attica Blues. Un'oretta di black music come ogni settimana. Oggi raddoppiamo il giro delle etichette per questo mese, quindi parleremo dell'Atlantic, storica etichetta di R&B e soul americana. Sempre un pensierino alle ristampe Trojan che hanno appassionato il vecchio continente per tutta la fine del secolo scorso e l'inizio di questo millennio. Atlantic, grande etichetta soul, R&B, ma anche jazz, insomma, ha prodotto tantissimi dischi e ha iniziato come etichetta jazz. Beh, era un periodo in cui probabilmente il jazz andava di più del soul e dell'R&B, che forse manco esistevano, non so esattamente quando è nata l'Atlantic, ma... E allora, l'Atlantic è nata nel 1947 grazie a un'idea di Ahmet Ertegun e Herb Armstrong a New York City. Non so se ci avete presente il simboletto dell'Atlantic, quella un po' stilizzata, insomma un simboletto che ha fatto la storia. Io mi è passato per le mani qualche 45 giri, erano rossi, viola, di vari colori, insomma sicuramente delle belle produzioni. C'erano anche dei, mi ricordo, un formato 45 giri che però andava a 33, quindi con più brani sopra, però un dischetto piccolino, di piccola dimensione, va, diciamo così. Allora cominciamo con la selezione. Sì, possiamo dire che l'Atlantic comunque ha fatto storia e ora poi diremo anche il perché. È stata comunque un'etichetta indipendente ma grande fin dalla nascita. 1947, iniziamo proprio con un brano di quell'epoca, Joe Morris è protagonista, Low Groovin'. We'll be right back. Allora, la nascita dell'Atlantic si deve a Mehmet Ertegun, soprattutto lui un turco nato nel 1923 a Istanbul, è figlio dell'ambasciatore turco e da subito ha girato con la famiglia, prima in Svizzera, poi in Inghilterra, fino ad arrivare poi negli Stati Uniti, dove il padre appunto era stato nominato ambasciatore turco. E da lì appunto loro vissero col fratello, visse a Washington, e alla morte del padre la madre e la sorella tornarono in Turchia, e invece il fratello Nesui andò in California, mentre Ahmet rimase a Washington. E qui si appassionò al mercato discografico e alla musica, e cominciò a lavorare in un negozio di dischi, e insieme al fratello incominciarono a organizzare i primi concerti, ma i nomi erano subito grossi, e in quell'epoca erano jazzisti, Lester Young, Sidney Bechet e altri appunto giganti del jazz. Questa è That Old Black Magic, Teeny Grimes, e siamo sempre nel 1947. C'era anche il secondo personaggio che fondò l'Atlantic, Ebb Armstrong. Lui era americano, nato nel 1917, andato al liceo appunto di Brooklyn, e da lì iniziò pure una collezione di dischi importante. Anche qui lui era un organizzatore di concerti, e per questo appunto conobbe Erdogan, e iniziò a lavorare per un'etichetta, la Jubileo Records. Erdogan si chiamava? Erdegun, scusate. Ah, ok, no, perché sai com'è, assonanze. E allora, la Jubileo Records, che si prefiggeva di registrare musica jazz e gospel, e appunto quando Erdegun iniziò appunto ad intraprendere questo business discografico, pensò subito a lui, e così nacque l'Atlantic Record. Abrason, che studiava odontoiatria a New York, conobbe un dentista turco, il dottor Vadi Sabit, che finanziò, era un personaggio molto ricco, e finanziò la nascita dell'Atlantic Record. E questo rappresentò per l'Atlantic una distinzione rispetto alle altre case discografiche, in quanto loro insomma producevano per passione, e quindi trattavano gli artisti veramente bene, dove appunto le altre case discografiche pagavano i diritti al di sotto del 2%, e all'Atlantic agli artisti veniva riconosciuto dal 3 al 5%. Che era un po' quello che avvenne alla Blue Note Records, insomma, dove tutti volevano andare a registrare per appunto come venivano accolti anche in sala di incisione, e lo stesso fu il segreto dell'Atlantic Record. Beh, diciamo che in generale nel mondo della musica è importante sentirsi trattati bene, ma non solo economicamente, anche proprio come ambiente, come situazione, come positività, perché comunque la musica ha bisogno di emozioni anche per essere realizzata, e quindi è importantissimo, diciamo, l'ambiente, la vibes che si respira negli studios e cose del genere, la comodità degli studi. E questo l'Atlantic lo garantiva, e già dai primi anni, insomma, gli artisti che erano sotto contratto per l'Atlantic erano tanti e interessanti. Parliamo di Stan Keaton, Art Pepper, Shirley Mann, Sarah Vaughan, Errol Garner, Mark Waldron, insomma, per quel che riguarda anche Dizzy Gillespie, per quel che riguarda il jazz, ma anche i primi cantanti, e quindi Ruth Brown, Joe Turner. E Frank Calley, che qui ce la sentiamo con Cole Slow. Sempre Atlantic Records, naturalmente. Colgo l'occasione per segnalarvi una bella iniziativa che ci sarà domenica 9 aprile in quel del Nuovo Cinema Palazzo, un'iniziativa chiamata Terremoto Prevenzione Emergenza, un incontro pubblico con vari rappresentanti, diciamo, degli NGV, del Servizio Sismico, di Scossa Solidale e della Protezione Civile, il tutto moderato da Geologia Senza Frontiere. Down in New Orleans where everything's fine, all them cats is drinking that wine, drinking that mess, they're delight. When it gets drunk, start singing all night, drinking wine, spurdy, drink wine, pop, pop. wine's for you to drink of mine. Mama, wine's for you to drink of wine. Mama, pass that bottle to me. Questo praticamente è rock and roll delle origini. Eh sì, qua siamo nel 1949. Questo brano è uscito proprio il 17 febbraio. Drinking Wine Spot D.O.D. Il cantante è Stevie McBee ed è diventato un grandissimo successo subito, fin dall'avvio. Cherry, wine, blackberry, wine, half and half, wine. Oh boy, pass that bottle to me. If you wanna get along, New Orleans town, buy some wine and pass it all around. Age runs up, 49. All those cats, they love sweet wine. Drinking wine's for you to drink wine. Wine's for you to drink wine. Mama. Wine's for you to drink wine. Mama. Pass that bottle to me. Hoy, hoy. Wine. Elderberry. Wine. Port cherry. Wine. Blackberry. Wine. Half and half. Wine. Oh boy, pass that bottle to me. Drink that slop. That's what I'm talking about. Ah, drink it. Sneaky Pete. Down on Rampart Street at Willie's Den. He wasn't selling but a little gin. One cat wanted a bottle of wine. If that cat for a dollar and a dime. Drinking wine's for you to drink wine. Mama. Wine's for you to drink wine. Mama. Wine's for you to drink wine. Mama. Pass that bottle to me. Hoy, hoy. Wine. Elderberry. Wine. Port cherry. Wine. Blackberry. Wine. Half and half. Wine. Oh boy, pass that bottle to me. I got a nickel, have you got a dime? Let's get together and get a little wine. Some buys a fifth, some buys a quart. But when you buy sherry, now you're doing things smart. Drinking wine's for you to drink wine. Mama. Drinking wine's for you to drink wine. Mama. Wine's for you to drink wine. Mama. Pass that bottle to me. Eh sì, era proprio il rock and roll quello che spingeva, che si ballava in coppia, un po' acrobatico pure forse, va? Cambiamo decisamente stile. Eh sì, lei è Ruth Brown, questa è So Long. So long. Hope we'll meet again. Maybe then you'll say, darling, I was wrong. So long, gee, I hate to see you go. You've been mine so long. E qui siamo ancora nel 1949, quando fu rilasciato il primo album. Appunto il primo 33 giri, anche se poi in realtà non era un album musicale, ma un album di poesie. E allora, fino al 1953, l'Atlantic era fondamentalmente un'operazione di tre persone, appunto Herb Abrason, che era il presidente, Ahmet Ertegun, che era il vicepresidente, la moglie di Herb, Miriam, che era appunto anche lei vicepresidente, teneva i conti, pagava le bollette e gestiva l'ufficio. Ma appunto Herb Abrason, che rimase stipendiato dall'Atlantic, in realtà poi si arruolò nell'esercito nel 1953 e quindi a Matt Ertegun dovette trovare un'altra figura che poteva sostituire appunto il presidente, e la trovò in Jerry Wexler. Though you leave me here to cry, this can never be goodbye. We'll just say so long. Diciamo sì che erano i tempi del rock acrobatico, ma erano anche i tempi dei lentoni, quelli che se ballavano alle feste, ai party, un po' per stare appiccicati, Manauma Sweet, insomma cose così. Continuiamo, selezione Atlantic Strictly. Qui cambiamo ancora genere, appunto sì, il brano si chiama Mardi Gras a New Orleans, appunto, ed è di Professor Longhair, e già dal rilascio del 1949 è diventata appunto la colonna sonora del carnevale di New Orleans. Well, I'm going to New Orleans. I want to see the Mardi Gras. Yes, I'm going to New Orleans. I want to see the Mardi Gras. When I see the Mardi Gras, I want to know what's carnival for. Going down in New Orleans, I've got my ticket in my hand. Going down in New Orleans, I've got my ticket in my hand. When I get to New Orleans, I wanna see the Zulu King. Till I see the Zulu pezzo indimenticabile e che ancora oggi si sente e fa ballare. E allora Jerry Wexler, che era nato a New York nel 1917, fin da giovane era solito frequentare i locali notturni di jazz ad Harlem, e appunto dopo la laurea lui e sua moglie tornarono a New York e lui ottenne un lavoro alla Billboard Magazine come critico musicale, e tra l'altro fu proprio lui che coniò il termine rhythm and blues. I feel 6 months I'm rocking and rolling, doing one till 99. Proprio per la, il suo ruolo di critico musicale che venne in contatto appunto con Erdogan, che gli chiese di andare a lavorare all'Atlantic Record come produttore. Wexler fu fatto subito presidente dell'Atlantic Record e rilevò il 13% della società per 2000 euro e dollari. E allora però, gli anni 50, che insomma non erano bruscolini. Compito appunto di Wexler era quello di produrre il rhythm and blues e la musica specificatamente per la vendita alla popolazione nera. Beh, i risultati furono subito ottimi e Wexler diventerà una colonna della, dell'Atlantic Record, anche se poi da lì a poco le cose cambiarono. Yes, fire's gone away. Diciamo che ovviamente cambiava anche il panorama musicale, cominciavano gli anni 50, quindi cambiava un po' tutto nella musica, vero? Esattamente. E allora dal 1953 al 1955 ci fu una nuova tendenza che ha avuto una, un impatto importante pure sull'Atlantic Records. Baby, can't you see what you're doing to me? I thought you know I love you so. Don't you know I love you so. Questa è Don't You Know I Love You, cantata dai The Clovers, ma poi in realtà il pezzo è firmato da Erdogan, che appunto si divertiva anche a a comporre dei brani, e alcuni dei quali hanno fatto anche un bel successo. Well, someday, pretty baby, you'll understand. Well, someday, pretty baby, you'll... Ma la minaccia arrivava dal pop, in quanto alcuni cantanti iniziarono a copiare le canzoni R&B, a fare delle cover un po' più leggere, appunto, pop, e questo valeva veramente tanto in termini di classifica. Infatti, brani originali che magari si piazzavano fra il 20° e il 25° posto, nelle riproposizioni di cantanti bianchi raggiungevano le hit, e quindi questo portò a Matt e Jerry alla conclusione che di espandere anche loro il loro mercato, appunto, e di non rivolgersi solamente alla popolazione nera, ma anche ai bianchi, che erano pure più facoltosi. Diciamo che questo è un fenomeno che sin dagli anni 30 è iniziato a succedere, quando i bianchi riproponevano la musica nera, ma non facendo delle cover, rifacendo proprio le stesse canzoni, copiandole in qualche modo, rifacendo e spacciandole per loro. Quindi è un meccanismo che in America ha influenzato il mercato discografico sin dagli anni 30, veramente sin dall'inizio proprio. E questo nuovo stile prese il nome di rock and roll. You my thrill, you my chill, you my all in all. You my thrill, you my chill. You love you and always will. You my thrill, baby, you my chill, you my all in all. Love that girl. andiamo avanti con un altro brano scritto da Ertegun. Full, full, full. That I met you, you look so doggone sweet. When you walk down the street, I said, there goes my meat. That I was too bold for you. E allora salutiamo Pizzo di Apostasia che ci ha chiamato e invitiamo a comunicarci il vostro punto d'ascolto allo 06 49 17 50. E vi ricordiamo anche le nostre pagine social di Facebook, Twitter e Instagram. Basta cercare Attica Blues e usciamo noi. I guess I still love you and will always be the same. Oh, ovviamente potete trovarci anche sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info o.it. Andate su Palinsesto, giovedì pomeriggio, cliccate Attica Blues e si apre la nostra pagina con tutte le varie info. Beh, questo brano pure era scritto dal presidente dell'Atlantic. Adesso ce ne andiamo a ascoltare un altro, andiamo avanti di periodo, scavalliamo di qualche anno. Siamo nel 1954, esattamente a maggio. Questa è Shake, Rattle and Roll di Big Joe Turner. E la particolarità è che poi i testi sono stati anche modificati da Haley per il mercato bianco. Get out of that bed, wash your face and hands. Get out of that bed, wash your face and hands. Make some noise with the pots and pans. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. Well, you wear old dresses, the sun comes shining through. I can't believe mine, all of this belongs to you. I believe to the soul, you a devil in my life. Sì, erano decisamente gli anni del rock and roll. Tra l'altro, proprio nel 1955, Elvis Presley era sotto contratto alla Sun Records e il contratto gli stava scadendo. E l'Atlantic era entrata in gara proprio per averlo. Free $30,000 dell'epoca, ma per fortuna poi fu superata dalla RCA Victor. Diciamo per fortuna, perché comunque loro non avevano poi quella somma, disse appunto Wexler. Quindi fecero insomma questa offerta, diciamo al buio. Wexler, che poi era veramente un precursore anche per quel che riguarda le radio, in quanto lui era uno che andava a proporre i dischi dell'Atlantic, i grandi successi, e pagava pure i DJ per far passare la sua musica. The midnight hour had found me lonely, so unhappy as I can be. You left me. Yes, you left me without a love. Gave you my loving, everything I own. That's why it's so shocking to find you gone. E questa è la voce riconoscibile di Ray Charles. Il brano si chiama The Midnight Hour. Ray Charles, che ha firmato per l'Atlantic nel 1952, facendo uscire appunto in quell'anno il suo primo disco intitolato Roll With My Baby. Haven't had no loving now since you know when. The way it's got me, baby, you know it's a sin. I haven't got no money and I've lost my friend. All because I fell for you. I don't know why I have to worry. When you left me in a hurry, you gone. Un Ray Charles giovanissimo. Follow you most anywhere, but now you're gone and I'm alone without a love. E ci sentiamo sempre lui in un altro brano, sempre Ray Charles degli anni 50. Around. Ah, you can talk about the pit, barbecue, the band was jumping, the people too. Ah, mess around, they're doing the mess around, they're doing the mess around. Mess around. Ah, everybody was juiced, you can bet your soul. They did the boogie woogie with a sturdy roll. They mess around, they're doing the mess around. around. I declare, do the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, there, boy. La figura di Ray Charles era un punto di svolta per l'Atlantic e viceversa, Ray Charles che rimarrà appunto con questa casa discografica fino al 1960, quando fu strappato da Creed Taylor e portato alla Impulse. E appunto questa miscela di soul, funk, R&B, ma anche gospel, era appunto il merito era di Jerry Wexler, che era appunto andato a Atlanta per ascoltare la nuova band di Ray Charles e da lì aveva deciso di produrlo. She knows how to shake that thing, mess around. I declare she can mess around. Ray Charles, che nel 1952 aveva anche registrato I Got Woman, che è considerato da alcuni come la nascita della soul music. Eh sì, comunque bisogna dire che ha fatto storia dall'Atlantic, c'è stato quasi 10 anni, quindi insomma non c'è che dire, ed era già come lo conosciamo noi, come abbiamo sentito il pianoforte era già il suo. Andiamo avanti con la selezione. Questa è di nuovo Ruth Brown, Wild Wild Young Man. Young men like to have a good time. Wild, wild young men like to have a good time. Wild, wild boyfriends like to lose their mind. Wild men dig me, but I love a cool one. Wild men dig me, but I love a cool one. Già dai titoli si capisce che cambiava qualche cosa. Questa è Soul on Fire. Shiver, makes me tingle. set my soul on fire, and I really have my fun with all the boyfriends, the good time in friends. I've still had to walk this road all by myself. I was a fair play girl, a careless gay girl. Now you set my soul on fire, and I really have my fun. Continuiamo con la selezione, questa è Whatcha Gonna Do. Clive McPatters and the Drifters. Look at there. Just run down the street. Now black and wavy hair. Now what you gonna say if I hold your hand? What you gonna say if I hold your hand? Will you look me in my eyes and say I'm your lover, man? What you gonna do? About 9 o'clock. Have you heard the news? beh, stiamo facendo un excursus pure di alcune voci femminili prodotte dall'Atlantic. Sì, questa è la Vern Baker, e appunto il brano si intitola Tweedledee, e appunto possiamo dire che questa puntata sta per finire. Noi abbiamo iniziato nel 1947 e ci fermiamo al 1954, quindi. Ma non temete che continueremo con gli anni dell'Atlantica, almeno fin quando rimarrà un'etichetta indipendente, non so se anche dopo, perché poi verrà venduta la Warner, quindi insomma dal 1967 sarà sotto la Warner, è tuttora sotto la Warner, e poi ha prodotto anche gruppi rock, vabbè, insomma, poi ne affronteremo, noi ci fermeremo probabilmente al 1967 poi come excursus appunto sul periodo R&B dell'Atlantic. E allora la Vern Baker. I'm as happy as can be. Chimney cricket, chimney jack, you make my heart go clickety clack. Andiamo a sentire un'altra voce femminile, sempre sotto contratto Atlantic. Lei è Ruth Brown, questa è la sua Oh What a Dream. Woke up this morning and I looked around, so disappointed. What a dream I had last night. Dreamed I held you in my arms, but I'm still waiting for that day to come. Oh, what a dream, what a dream I had last night. opened my eyes. You weren't there. All of my happiness just disappeared. Oh, what a dream. What a dream I had last night. Chiudiamo questo excursus all'Atlantic con un ritorno di fiamma, sempre Ray Charles, inevitabilmente l'artista forse più importante di questo periodo. E allora, Ray Charles, 1954, Atlantic Records, Queens, Bex. As I was walking down the street last night, a pretty little girl came in the sight. I bowed and smiled and asked her name. She said, hold it, bud, I don't play that game. I reached in my pocket and to her big surprise, that was Lincoln staring her dead in the eye. On a greenback dollar bill, just a little piece of paper coated with chlorophyll. She looked at me with that familiar desire, eyes lit up like they were on fire. She said, my name's Flo and you're on the right track. Look here, daddy, I wear furs on my back. So if you want to have fun in this man's land, let Lincoln and Jackson start shaking hands. On a greenback dollar bill, just a little piece of paper coated with chlorophyll. I didn't know what I was getting into, but I'd pop Lincoln and Jackson too. I didn't mind seeing them fade out of sight. I just knew I'd have some fun last night. Whenever you're in town and looking for a thrill, if Lincoln can't get it, Jackson sure will. On a greenback dollar bill, just a little piece of paper coated with chlorophyll. We went to a nice spot where the lights were low. Dined and danced and I was ready to go. I got out of my seat and when Flo arose, she said, hold it, daddy, while I powder my nose. I sat back down with a smiling face while she went down to the powder place. With my greenback dollar bill, just a little piece of paper coated with chlorophyll. The music stopped in the light. E allora chiudiamo con l'ultimo brano di Ray Charles. L'abbiamo detto prima, è considerato il primo brano della soul music, I Got Woman. Yeah, I got a woman way over town that's good to me. Just for me. both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? That's good to me. Oh yeah. Don't you know she's alright? Don't you know she's alright? She's alright, she's alright. Allora, nel salutarvi vi ricordo che giovedì prossimo cominceremo questa nuova avventura col vinile, 45 rivoluzioni per minuto, quindi Attica Blues una volta al mese trasmetterà in vinile appunto a 45 e a 33 rivoluzioni per minuto, quindi sarà un bel viaggio, chissà se si sentirà l'ascolto diverso. Fin dalla sigla, eh? Fin dalla sigla, eh? E allora Attica Blues finisce qua, ma rimanete in ascolto perché adesso c'è la Schiena del Sol.